Negli ultimi 4 mesi, 5 operazioni repressive hanno colpito decine di compagni e compagni anarchici in tutta Italia. Indagini, perquisizioni, arresti e misure restrittive per reprimere chi lotta contro un sistema di sfruttamento e miseria. Ne parleremo giovedì 1 novembre dalle 20 alle 21 per 3 giovedì di seguito, perché ogni accusa di terrorismo la rimandiamo al mittente. Terrorista è chi bombarda, devasta e rinchiude. Terrorista è lo Stato. Di questo 15 novembre siete sugli 87.9 di Onda Rossa. Torniamo in voce per contattare la redazione sullo 06 49 17 50, o inviando sms al 342 35 74 357. Uno studio abbastanza partecipato, con la presenza di compagni e compagni che stanno curando appunto uno spazio di approfondimento che parlerà e tratterà degli strumenti con i quali cercano di reprimere e fermare le lotte, con i quali provano ad opprimere la vita di ognuno e ognuna di noi. Parleremo appunto con loro di repressione per questo terzo ed ultimo appuntamento in queste 2 ore buone di approfondimento. Allora, ciao a tutti e tutte, ci troviamo, come ha introdotto la compagna prima, alla terza puntata di questo ciclo di trasmissioni. E se nella prima abbiamo affrontato un po', abbiamo cercato di fare un quadro storico di quello che ha rappresentato la repressione nei confronti di chi non si è inchinato alle leggi dello Stato dalla fondazione stessa dello Stato d'Italia, quindi dalla metà dell'Ottocento fino ai giorni nostri. L'ultimo giovedì passato invece siamo entrati un po' più nel merito di ciò che è avvenuto quest'estate, ossia abbiamo raccontato e approfondito un po' le inchieste che hanno perseguito dei compagni di area anarchica avvenute quest'estate fra giugno e settembre. Oggi cercheremo di parlare e di approfondire gli aspetti tecnici delle varie fasi delle inchieste e delle mosse repressive. Quindi pensiamo sia importante parlare e confrontarsi sui metodi e sugli strumenti di cui lo Stato si dota e gli organi repressivi si dotano per perseguire e per insinuarsi sempre di più all'interno proprio delle vite private dei compagni e delle compagne. Quindi come funzionano i pedinamenti, le riprese ambientali, telefoniche, le intercettazioni e le video riprese, nonché proveremo un po' a parlare delle perquisizioni, insomma un po' di tutte le fasi, e fino ad arrivare a due parole sulla S, le sezioni, le nuove norme che sono state introdotte negli ultimi anni nel regolamento penitenziario. Oggi, insomma, ci teniamo a mandare un forte abbraccio, come al solito, a tutti i compagni e le compagne rinchiusi, e in particolare a quelli che ieri sono stati portati in carcere dopo la manifestazione che c'è stata a Roma. A loro tutta la nostra solidarietà. Insomma, ieri abbiamo visto come non è più tempo nel quale, in questo tempo non ci possiamo più aspettare sconti. Se si scende in piazza la risposta sarà questa, sarà quella della violenza e della repressione, e ci auguriamo e speriamo di adoperarci. È un invito a tutti, a noi in primis, perché ciò non accada più, perché non ci trovino impreparati, ossia se vogliamo continuare a scendere in piazza e esprimere la nostra rabbia dovremo farlo sempre in maniera più cosciente, organizzata e così via. Passo la parola ai prossimi compagni. Ricordo guardarti. Cammina tra gli sguardi a testa alta e non voltarti. Non possono cambiarti. Ricorda, la tua idea ti distingue dai codardi. Là dentro pareti si divorano il tuo tempo. Qua fuori è solo un altro giorno e non lo annoto tra i migliori. Non passa la sensazione d'essere comparsa. Maledico un'altra volta questa farsa. Ma ricorda, ciò che importa è quello che contorce le budelle ed ogni tanto ci conforta. Tieni aperta quella porta. La speranza e la sua forza sono quel segmento dritto in quella linea storta. Sopporta, la tua gente ti supporta. Sopporta a sua volta. Coltiva il proprio sogno di rivolta in questa terra incolta. Si batte per lealtà nella città che non ascolta. Amicizia corta, un'esistenza che risponde a scelte di coscienza. E la mia scienza e conoscenza fonda la mia quintessenza. Quotidiana resistenza, un concetto molto chiaro nella mia esperienza. Ricorda. Allora, ci ritroviamo qui, fortunatamente abbiamo un compagno avvocato qui con noi che sicuramente appunto ci potrà chiarire un pochino meglio di quello che abbiamo provato a fare noi in queste giornate, quello che è il momento attuale repressivo. E sicuramente appunto una domanda che potremo fargli innanzitutto per cominciare è quella di chiarirci più o meno quello che è l'utilizzo che viene fatto nel momento attuale di strumenti repressivi come appunto i reati associativi e del fatto che se ad oggi, come vengono utilizzati oggi questi strumenti, se possiamo trovare un filo conduttore appunto che li lega alla storia di quello che abbiamo descritto appunto la scorsa volta, la storia dei reati associativi e quindi della repressione del dissenso interno all'interno di questo Stato democratico. Sì, un saluto a tutti e tutte. Sì, adesso sistemiamo un po' il microfono, non riusciamo a fare. Sì. Ogni mattina il sole sorge ancora al di là della cortina. Ricorda, tiene aperta quella porta, il sogno che alimenta la tua. Allora, un saluto a tutti e tutte. Sì, appunto sono stato invitato, a me dispiace di non aver avuto modo di seguire e di riascoltare le due precedenti trasmissioni, sennò probabilmente riuscirei a calare anche un ragionamento, diciamo, in maniera più compiuta rispetto a quello che era l'interesse che ha mosso questi compagni e queste compagne, diciamo, a svolgere e a proporre tre trasmissioni su appunto tematiche associative, repressioni del conflitto sociale, repressioni degli antagonismi, repressioni dei veri e propri tentativi o comunque di rilancio di anche una prospettiva rivoluzionaria nel nostro paese. E chiaramente se parliamo di reati associativi stiamo parlando di un qualche cosa che attiene a una minoranza dei compagni e delle compagne, stiamo parlando chiaramente delle aree politiche più politicizzate e con un maggiore spessore soggettivo che hanno sicuramente più chiaro in testa quelli che sono gli obiettivi, come vorrebbero in qualche modo, che cosa sognano, che cosa vorrebbero, qual è il loro immaginario di trasformazione di questa società. E nei confronti di queste aree politiche presenti e diffuse ancora fortunatamente sul territorio nazionale, e ciclicamente si riversano campagne repressive che normalmente utilizzano lo strumento dei reati associativi, strumento duttile che in qualche modo è plasmabile a seconda delle esigenze sui diversi fenomeni e le diverse modalità con cui questi fenomeni si propongono, diciamo, sul panorama nazionale. Per iniziare a rispondere alla domanda, possiamo certamente dire che gli strumenti, l'apparato statuale si è sempre dato, almeno negli ultimi 70 anni si è dato nei reati associativi una forma certamente consueta della repressione. Avrete già sicuramente parlato della nascita del 270 nel codice Rocco, per cui codice di matrice fascista che trova in quel regime autoritario, diciamo, la sua genesi. Poi certamente immagino avrete parlato del 270 bis e per cui della trasformazione che in un momento, diciamo, di fortissima conflittualità politica e sociale di questo paese, l'ordinamento ha ritenuto, per cui i nostri legislatori hanno ritenuto di dover inserire nel nostro ordinamento un ulteriore reato che colpisse in maniera ancora più anticipata le condotte di chi si poneva come scopo quello di trasformare questo paese, che appunto per almeno un trentennio è stato definito terrorista. Poi immagino che avrete parlato a seguito degli attentati alle Torri Gemelle, l'ulteriore evoluzione e quindi anche dell'inserimento del terrorismo internazionale, per cui il pacchetto Pisano, ma anche, diciamo, quelle che sono state poi le deliberazioni anche in ambito europeo su che cosa sia il terrorismo, e che poi è stato ripreso dal 270 sexies, che sostanzialmente, diciamo, è andato a codificare quelle che sono le condotte e che cosa bisogna ritenere che sia effettivamente terrorismo. Se sono troppo tecnico, chiaramente ditemelo voi, intervenite voi, perché vorrei invece che anche il mio intervento fosse divulgativo, per cui che non fosse, diciamo, ad uso e consumo solamente di esperti o cosiddetti esperti della repressione politica. Immagino anche che avrete parlato, diciamo, di questa ulteriore evoluzione tutta squisitamente giurisprudenziale, e per cui dell'interpretazione che i giudici danno delle leggi presenti nel nostro codice penale, che chiaramente, diciamo, tendono sempre di più a plasmarsi a seconda anche di come si modifica la realtà sociale, di come si modificano i vari livelli, diciamo, di antagonismo che si propongono nel nostro paese. Certamente uno degli elementi, diciamo, che in una precedente chiacchierata con alcuni compagni che stanno realizzando questa trasmissione si era in qualche modo nucleato, si era dato a individuare nella giurisprudenza che si era formata in materia di terrorismo islamico in Italia, una delle ulteriori, diciamo, frontiere evolutive di questa giurisprudenza per i reati associativi, perché chiaramente, diciamo, in qualche modo dovendo andare a reprimere quello che è un fenomeno come il terrorismo, cosiddetto terrorismo di matrice islamica, diciamo, ha fatto in modo di modificare quelli che erano, diciamo, dei criteri interpretativi che si era dato la giurisprudenza sugli stessi elementi che dovevano essere sussistenti, tra i quali in primo luogo prima si pensava a una la giurisprudenza aveva ritenuto che vi dovesse essere una rigida gerarchia. Oggi questa gerarchia, diciamo, in qualche modo è venuta meno nell'evoluzione giurisprudenziale. Prima in qualche modo un altro criterio che doveva sussistere perché effettivamente potesse affermarsi la sussistenza di un reato associativo era che ci dovesse essere una struttura organizzata che fosse idonea al perseguimento degli scopi. Oggi questa struttura invece può essere molto labile, addirittura la stessa rete internet può essere considerata una struttura, tant'è vero io assisto nell'operazione Ardire un compagno e una compagna che avrebbero realizzato un blog e per questo si sono trovati prima contestato un reato associativo come il 270 bis, poi l'istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato e poi ad abundantiam due campagne di tentati esplosivi, fortunatamente oggi caduti, che in qualche modo comunque la Procura di Perugia aveva ritenuto di poter regalare a queste due persone, diciamo, per infarcire e rendere un po' più interessante, diciamo, anche l'ipotesi accusatoria che gli veniva contestata. Sì, quindi da queste informazioni capiamo che quindi non è la norma in sé, oltre all'importanza appunto delle varie norme introdotte, sono poi le esperienze giuridiche, cioè i precedenti giuridici, appunto l'interpretazione che i vari giudici danno a quelle norme che poi creano il precedente, che poi può essere riutilizzato ovviamente in un futuro, nelle future manovre repressive che verranno utilizzate. Capelli corti, buone notizie, carabinieri morti, barricate! Allora sì, ci ritroviamo in linea. E secondo noi una cosa interessante, appunto, ti potremmo chiedere, Flavio, è un esempio, appunto, di questi precedenti di interpretazione di queste norme che possono essere citati negli ultimi tempi e che potrebbero essere interessanti, appunto, per capire e analizzare il periodo attuale. Allora, diciamo precedenti, chiaramente sotto un punto, da un punto di vista giurisprudenziale, se riteniamo i precedenti possono essere, diciamo, probabilmente la domanda, diciamo, sotto questo punto di vista era minimamente fuorviante, e spiego il perché. Perché l'interesse dove volevamo in qualche modo giungere era alla recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di 270 bis per quanto riguarda il processo al Partito Comunista Politico Militare, inchiesta milanese, che appunto ha visto prima un annullamento della Cassazione e poi una riforma della Corte d'Assise d'Appello e poi nuovamente una conferma della Corte di Cassazione della nuova decisione della Corte d'Assise d'Appello. Di che cosa si parlava? Anche lì vi erano contestato a questo gruppo di compagni, si contestava il 270 bis, erano compagni che avevano certamente una dotazione di armi, che erano stati ritrovati documenti, avevano un giornale nel quale si dava indicazioni di alcune attività di propaganda armata che si volevano realizzare, come anche attentati alle persone, per cui si parlava di attentati a Dichino, per dirne uno, oppure attentati, diciamo, a luoghi simboli o comunque a luoghi che erano ritenuti, diciamo, indicativi diciamo, dell'attuale assetto statuale, per cui luoghi da colpire. I difensori di quel processo hanno profondamente contestato nei tre gradi di giudizio che queste condotte potessero rientrare effettivamente nell'articolo 270 bis, articolo che punisce più gravemente rispetto all'articolo 270, perché noi l'anomalia del nostro ordinamento era la coesistenza di due norme che chiunque di noi, diciamo, senza aver approfondito particolarmente la questione, aver fatto dotti studi in giurisprudenza, chiaramente avrebbe ritenuto due norme assolutamente sovrapponibili. Per cui che differenza c'era tra il 270 e il 270 bis? In primo luogo la differenza era da un punto di vista sanzionatorio: i capi e promotori vengono puniti fino a 10 anni nel 270, fino a 15 nel 270 bis. E poi però effettivamente, leggendo le due norme, non si comprendeva effettivamente quale fosse la differenza e per cui quando fosse effettivamente riscontrabile un reato o l'altro. Diciamo, questa sentenza della Corte di Cassazione, diciamo, ha tentato di porre un punto, diciamo, per cui di indicare dei criteri. I criteri sostanzialmente il livello qualitativo della violenza che per il 270 bis deve essere una violenza indiscriminata, deve essere una violenza, diciamo, che è talmente, diciamo, eterodiretta, diciamo, come direzione della violenza, non perché deve essere portata avanti da qualcun altro, che però deve avere una direzione, diciamo così, indeterminata, che sostanzialmente deve poi coinvolgere la stessa popolazione civile fino a modificarne i comportamenti abituali. Certamente questo, un tipo di violenza di questa natura, certamente non è riscontrabile nella stragrande maggioranza dei precedenti giurisprudenziali, che invece erano stati ritenuti come effettivamente aggravati da finalità di terrorismo. Per cui questo precedente, qualora non verrà, diciamo, immediatamente sconfessato da altra sezione della Corte di Cassazione, che magari andrà a affermare altro come principio di diritto, proprio perché, come dicevi tu, che mi hai posto la domanda, effettivamente sono i giudici che interpretano la norma, per cui potrebbe esserci anche domani una nuova sentenza che invece vada ad affermare altro. Però ad oggi tutti i reati, diciamo, tutti i processi che si stanno celebrando, in cui vengono contestati, in cui sono contestati le finalità di terrorismo, sostanzialmente non sussisterebbe questa finalità di terrorismo, neppure nell'attentato ad Equitalia, al direttore dell'Equitalia, a Marco Cuccagna. Cioè, quello è un attentato che viene inviato a un soggetto singolo e non contro lo Stato, non contro gli organi, diciamo, costituzionali dello Stato, ma un soggetto singolo per punirlo, diciamo, di un'attività che è connessa alla sua attività lavorativa, diciamo, per quello che lui svolge con la sua attività lavorativa. Teoricamente, per l'interpretazione data oggi da questa sentenza della Corte di Cassazione, anche quello non dovrebbe rientrare nel 280 bis, per dire, o nel 280, anzi, molto più correttamente, visto che è un attentato alla persona. por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Seguida por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Too strong. Yo, Chuck, these dirty drippers are still front on us. Show them that we can do this, cause we always do this. Yeah, boy. Bass, how low can you go? Death row? What a brother, no. Once again, back is the incredible rhyme animal, the uncannibal beast. Public enemy number one. 5-4 said freeze, and I got numb. Can I tell them that I really never had a gun? But it's the wax that the Terminator X bun. Now they got me in a cell, cause my records they sell. Cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet, and I think you wanna listen to what he can say to you. What you ought to do is follow for now. Power the people say, make a miracle. Keep up the lyrical. Black is back, all in, we're gonna win. Check it out. Yeah, yo, come on. Here we go again. Chuck, this ain't we do black, man. Bring the noise. lessons I'm saying inside music that the critics are blasting me for. They'll never care for the brothers and sisters. Why? Cause the country has us up for the war. We got to get them straight. Come on now, they're going to have to wait till we get it right. Radio stations are questioning their blackness. They call us a black, but we'll see if they'll play this. Bring the noise. Hey yo, Chuck, they illin, we chillin. Bring the noise. Yo, P.E. in the house, stop feeling. Hey yo, Chuck, yo, what you can do, boy? Get from in front of me, the crowd runs to me. My DJ is warm, he's X, I call him Norm. You know, he can cut a record from side to side. So what the ride, the glide, what should be safer than a suicide? Soul control beat is the father of your rock and roll. Music for watching, for witching. You call a band, man, making a music of music. But you can't do it, you know, you call them demos. But we ride demos too. What you gonna do? Rap is not afraid of you. Beat is for Sonny Bono. Beat is for Yoko Ono. Run the MC first, then the DJ could be a band standing its own feet. Get you out your seat. Beat is for Eric B and LL as well. Hell, watch is for Anthrax. Still it can rock bells. Ever forever, universal it will sell. Time for me to exit. Terminator exit. Hey, yeah. Bring the noise. Yo, they should know by now that they can't stop this bummer. Bring the noise. Word up, man, they keep telling me to turn it down. But yo, play the play, man, going out like that. Come on. Used to be like a comatose. Stand my man, the beats the same where the bolt goes. Rock with some pizzazz, it will last. Why you ask? Roll with the rock stars. They'll never get accepted at. Allora, appunto stiamo parlando della, dell'interpretazione che viene fatta delle varie norme. Parlando di questo tema, secondo me è importante appunto porre un attimo l'attenzione sull'interpretazione che viene fatta proprio del termine terrorismo e quindi di come viene utilizzato questo. Se per termine terrorismo chiaramente si intende un termine, diciamo, generico utilizzato normalmente, diciamo, comunemente, diciamo, da tutti i consociati, e a me viene in mente la manifestazione ieri, la manganellata in faccia data da un animale di poliziotto contro un manifestante che era stato fermato a terra, probabilmente provocandogli lesioni importantissime. Terrorismo, diciamo, invece da un punto di vista tecnico, certamente, diciamo, appunto, alla luce di questa giurisprudenza che stavo prima menzionando, terrorismo è appunto un livello di violenza che è talmente, diciamo, esasperato, è talmente importante, è talmente esorbita talmente i livelli normali di violenza da appunto determinare nella stessa popolazione una modifica dei comportamenti proprio perché terrorizzati da un qualche cosa che sta avvenendo. E certamente questo ha avuto un'evoluzione, certamente il termine, diciamo, anche questa categoria di terrorismo. Se noi pensiamo a tutti i precedenti storici italiani, dovremmo dire che 2/3 dei padri della patria italiani sono dei terroristi, perché alla luce, diciamo, delle interpretazioni, delle norme che vengono date attuali, da, a partire da Oberdan, ovvero colui che lanciò una granata all'interno di un corteo per ammazzare l'imperatore austriaco, sarebbe chiaramente considerato un terrorista, mentre invece i nostri soldati nella prima guerra mondiale andavano in guerra gridando "Abbasso Franza, vive Oberdan". Abbiamo piazze praticamente in tutta Italia che, diciamo, ricordano il gesto di Oberdan. E Oberdan è chiaramente un terrorista alla luce dell'oggi, oppure le brigate partigiane, ne potremmo fare tanti di esempi, fino ad arrivare al fatto, tant'è vero che questa interpretazione si è così modificata ad oggi e toglie, diciamo, la legittimazione delle azioni condotte da parte, diciamo, anche dei resistenti, che qualche anno fa a Perugia si è celebrato un processo contro due compagni turchi, un compagno e una compagna, che erano accusati di aver costituito una cellula, il DHKPC, un'organizzazione marxista-leninista turca, che avrebbe avuto la funzione, diciamo, di mantenere il collegamento tra la testa dell'associazione, di questa organizzazione, residente in Olanda e in Germania, e le unità di propaganda armata, ovvero la guerriglia che faceva riferimento al DHKPC, presente in Turchia. Chiaramente anche in quel processo si è posto il problema se nei confronti di uno stato autoritario, uno stato fascista, uno stato che fa, diciamo, del mancato rispetto, diciamo, di quelle che cosiddette libertà democratiche, se sia o meno legittima anche l'uso della violenza e l'uso della lotta armata. Era una questione centrale, ad esempio, in quel processo. Lì, in quel caso, la Corte d'Assise di primo grado, la Corte d'Assise d'Appello sempre di Perugia e poi la Corte di Cassazione sostanzialmente hanno aderito all'interpretazione oggi assolutamente diffusa, ovvero che in questa fase storica sono cambiate tutte le categorie interpretative, per cui quello che un tempo venivano osannati i partigiani, i vecchi compagni partigiani che sognavano e si sono battuti, oggi sarebbero considerato niente di più che un manipolo di terroristi, per cui c'è stata un'evoluzione assolutamente deteriore, e chiaramente su questo è tutta una battaglia di natura ideologica che, diciamo, che in qualche modo spetta a chi oggi si pone ancora da un punto di vista di trasformazione dell'esistente, che invece dovrà chiaramente tentare di riaffermare nuove categorie che tendano, diciamo, a contrastare quello che oggi invece si tende in qualche modo a far passare tutto per terroristico, quando invece appunto in realtà magari è legittimato semplicemente da un tentativo di trasformazione del sociale. Lamentablemente la condizione que estamos viviendo ha llegado a ser una miseria insoportable para la gente. Pero hay unos vendepatrias ingreídos que todavía creen en una sociedad de antes, donde los artistas fuimos bestia de trabajo para la industria. Ese sueño se ha acabado y ahora nos encontramos despiertos en la hora de revolución. Porque no podemos llamar esto un movimiento si toda la propiedad intelectual pertenece a los que nos oprimen. Nos compraron el alma barata, hasta la sangre nos sacan, atacan y con un contrato te atrapan. Pero primero me matan, hermano, porque prefiero morir peleando que ser esclavo. Industria sucia, toma lluvia de ácido, aprende la historia de hip hop clásico. Cuando controlan el negocio y la cultura, la música se vuelve en comercio basura. Y la reina latina, pintada como gallina, es más que bailarina o puta en la esquina. Es abogada, profesora, madre soldada, y carga nuestro futuro cuando está embarazada. Mira nuestra gente crucificada y la manera desgraciada que estos perros no hablan de nada más que fiestas y riqueza que la gente no tiene. Así que ahora vas a ver la violencia. Allora, proprio appunto soffermandoci sulla considerazione e l'interpretazione di terrorismo, iniziamo ad affrontare quello che avevamo detto appunto che avremmo affrontato, ovvero il prima, il dopo e il durante una manovra repressiva. E per questioni esclusivamente tecniche, ovvero per il fatto che vorremmo affrontarle non solo dal punto di vista tecnico, ma anche proprio dal punto di vista di esperienze vissute, raccontando quelle che sono state le nostre e le esperienze vissute da altre persone, quindi in prima persona quelle che sono come appunto si svolgono queste manovre repressive, partiremo dal dopo, ossia dalla carcerazione. Proprio parlando della carcerazione, appunto, è interessante puntare l'attenzione sul fatto che se si è accusati di terrorismo, quindi di reati che riguardano il terrorismo, automaticamente si viene detenuti all'interno di un percorso carcerario speciale. Quindi appunto vorremmo parlare di come funziona e come viene vissuta questa situazione. Alla rovina l'hanno vega giunti, da solo polvere fuorigine all'origine era città. Leggiamo bruciano su vinda stessa, già sono i miti dei grigi, sbiadi dei spari, ricordi di un'antica dubbia, non è come prima pavimento alla rovina. Cena nei carecci non si capita ancora, il cielo sa città cangiando color. I venga. E allora, facendo riferimento ancora una volta appunto a tutte le operazioni repressive che purtroppo si sono verificate in questi ultimi mesi, tutte diciamo caratterizzate da dall'accusa di reati con finalità di terrorismo, dobbiamo appunto, non possiamo non affrontare la questione del carcere, ovvero del regime di detenzione a cui i compagni e le compagne vengono poi sottoposte. Infatti diciamo che è del 2009, dell'aprile del 2009, una circolare del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria che opera proprio appunto una differenziazione in termini di carcerazione, anche preventiva. Quindi adesso vedremo in che cosa, diciamo, consiste questo nuovo dispositivo e lascio quindi la parola alla compagna. Allora, dunque, il nuovo assetto del carcere speciale è stato riscritto attraverso questa circolare del DAP che non ci sembra niente di nuovo, infatti ha dato attuazione a principi già scritti nell'ordinamento penitenziario e comunque già da tempo attuati attraverso il circuito di elevato indice di vigilanza. E si può dire che dopo le pressioni ricevute dalle istituzioni europee il cosiddetto circuito EIV è stato per così dire abolito e le persone incarcerate sono state assoggettate a questo nuovo regime di AS classificato in AS1, AS2 e AS3. Allora, brevemente descrivo i circuiti. Diciamo che il primo vengono ristretti gli appartenenti, diciamo, a criminalità organizzata di tipo mafioso, che comunque hanno rivestito ruoli di primaria importanza nell'organizzazione criminale. La S2 invece vengono ristretti attraverso il meccanismo, il dispositivo dell'imputazione di reati commessi con finalità di terrorismo, sostanzialmente i detenuti politici. Sì, i detenuti politici e i detenuti, diciamo, in qualche modo arrestati con l'accusa di terrorismo internazionale. Sì. Terrorismo interno, internazionale, diversione dell'ordine democratico. E, diciamo, la cosa da sottolineare è che nella S2 non c'è solo questo automatismo, ma c'è una grande discrezionalità da parte della direzione generale del DAP, per cui all'interno della S2 vediamo che si possono restringere anche le persone che anche non essendo state imputate di reati che dicevamo, comunque attraverso le indicazioni poi degli organi di investigazione, che altro non sono che polizia e carabinieri, quindi che creano questi fascicoli con l'indicazione alla direzione generale di richiesta di far convergere le persone dentro il circuito AS2. Diciamo che la ratio, cioè la ragione, insomma, è abbastanza evidente, non è nuova, nel senso che la differenziazione della popolazione carceraria non è una novità, diciamo che già dagli anni 70 questo si è sempre verificato e diciamo in questo modo trova il suo apice. Sì, c'è da dire che però alla fine degli anni 70, diciamo, l'istituzione delle carceri speciali trovava tra virgolette una giustificazione nelle numerose rivolte che si verificavano all'interno delle carceri in tutto il paese, mentre nel 2009 insomma riteniamo che anche questa, insieme poi a tutte le altre norme introdotte, abbia carattere assolutamente preventivo, dal momento che grandi rivolte o evasioni anche, che vengono citate tra l'altro dentro la circolare, non si siano verificate, così come fuori, insomma, non... Anzi, sembra più appunto il tentativo di isolare appunto i detenuti politici rispetto alla popolazione carceraria e cosicché tentare comunque di... di piegare in qualche modo le personalità. Scusa se ti interrompo, ma diciamo che è scritto proprio nero su bianco nella circolare del DAP. Appunto i motivi per i quali poi viene effettuata questa differenziazione e tra questi, quindi diciamo non è che lo pensiamo noi, c'è proprio scritto, è appunto la necessità di isolare compagni e altri detenuti perché loro non possano diciamo in qualche modo contaminare con le loro idee e comunque sia dare vita e sostegno alle lotte di tutti i detenuti e al contempo che non vengano loro stessi diciamo intercettati e da quella componente che gli sbirri praticamente definiscono criminale. La volontà di differenziazione appunto dei detenuti politici è anche volto sicuramente alla volontà di costruire o comunque determinare delle nuove strutture sicure dal punto di vista sia logistico che di apparati e dispositivi altamente tecnologici, elettronici, al fine di assicurare la massima sorveglianza. Sì, e anche qui tra l'altro è scritto nero su bianco che appunto in questo modo lo Stato avrebbe la possibilità di controllare nei minimi particolari quali sono appunto i rapporti e i ragionamenti che vengono fatti anche all'interno delle celle del carcere speciale. Lamentablemente las condiciones que estamos viviendo han llegado a ser una miseria insoportable para la gente. Pero hay unos vende patrias ingreídos que todavía creen en una sociedad de antes. E quindi a partire appunto dal 2009 sono state istituite queste sezioni AS. In particolar modo appunto abbiamo detto la S2 quella in cui vengono rinchiuse e rinchiusi i compagni, si differenzia al suo interno ancora di più, nel senso che in attesa che vengano costruite, diciamo, come annunciato, delle carceri speciali totalmente isolate dagli altri istituti penitenziari, sono state riadattate alcune carceri a questo proposito. Quindi, ad esempio, è stato stabilito che in base, diciamo, ad una suddivisione d'area, che gli anarchici uomini vengono detenuti appunto in questa sezione S di Alessandria, che a Siano e a Carinola ci siano i comunisti, a Benevento e a Macomer i cosiddetti terroristi islamici, e si dava voce nel 2009 che a Terni venissero detenuti i fascisti. Centre-ville, MARS, pas besoin de te présenter ma ville. Ça rappe depuis les premières heures, microphone branché à vif. Ça rappe dans tous les coins, sera plan du rap d'hier. Troisième génération d'MC arrive déjà la quatrième. Identité marseillaise, ni New York, ni Atlanta. Nous on reste fidèles à nous-mêmes, on n'attend pas, nous on s'en bat. On garde l'honneur des gens d'en bas, énervé ou nonchalant. Trop sincère, numéro un s'appelle à jamais Luciano. Marseille, Marseille a toujours fait vibrer la France. Ce fut un temps où tout l'hexagone rappait même avec l'accent. J'en place une pour les absents, puis une autre pour tous nos anciens. J'ai dit qu'on chiale toi, mais ferme-la et colle ta tête aux anciens. Nous on rappe avec des principes, même son cœur avec des principes, et j'insiste, car dans ce bistrot frère qui vacille, faire le fou c'est facile, rester vrai c'est fragile. MARS c'est magique, un peu de cœur t'enraye la machine. Tu verras pas venir le coup d'éclat. L'école du rap de Mars, qui a dit que le rap du sud était mort. Ici le flux est énorme. 1, 3, centre-ville, quartier sud, quartier nord. Marseille, Marseille, Marseille. Le rap du sud était mort. Ici le flux est énorme. Marseille atterrit dans les chartes, revoilà le vaisseau spatial. Y'a ceux qui restent et ceux qui partent, nous c'est du vrai son spatial. C'est notre histoire qui parle d'elle-même. C'est le mec à vouloir faire du fric, mon frère, on s'est foutu dans quelle merde. Des balles envoyées pêle-mêle, le son c'est la cour martiale. Les MC cherchent la somme, la vie de rêve, le jeu du Barça. En face d'Alger et de Gaza, de ceux que ceux qui gouvernent ignorent. Trafiqué western, ignoble, miracle et destin ignoble. Rien à prouver à personne, faut juste répéter les coups. Que ceux qui viennent pour défiler ne viennent pas nous péter les couilles, les couilles. Micro ouvert, j'compte rester jusqu'à plus d'heures. Chez nous même les voyous ont du respect et de la pudeur. J'suis de ceux qui borcent avec les crocs, comme monsieur borce avec les mots. J'traite pas avec les flûtes, avec les torses, avec les faux. J'vide mon chargeur, vacciné et majeur. Marseillais et rageux, de ceux qui savent rimer en levant le majeur. Tu verras pas venir le coup d'éclat. L'école du rap de Mars, qui a dit que le rap du sud était mort. Ici le flux est énorme. 1, 3, centre-ville, quartier sud, quartier nord. Marseille, Marseille, Marseille, Marseille. Qui a dit que le rap du sud était mort. Ici le flux est énorme. 1, 3, centre-ville, quartier sud, quartier nord. Tu peux pas faire cet esprit rebelle. Pour la ville, nos écrits se lèvent. À l'heure où ceux qui touchent des primes se taisent. Force ceux qui méprisent le trèfle. Dédie ce texte à la ville à part. Si t'es marginal, mise à part. Que de la ruse, elle est la capitale. Ma ville fout la haine aux normes, attirante comme les phéromones, bouillante comme le vélodrome, mais beaucoup plus ancienne que Rome. Sais-tu seulement d'où vient la dimension identitaire de l'indépendance vécue à travers quelques millénaires. E allora, rispetto a questa questione appunto dell'isolamento carcerario, tra l'altro nel quale appunto si trovano attualmente tutti i compagni e le compagne arrestate nelle ultime inchieste, avevamo chiesto un contributo scritto appunto proprio dai compagni nel carcere di Alessandria. Per motivi di tempo, probabilmente di tempi, di lettere non arrivate, di lettere non giunte appunto a destinazione, rimandiamo ad un altro momento appunto il loro contributo scritto, che arriverà ma non è arrivato per oggi. Abbiamo però una telefonata con un compagno che è stato detenuto nella sezione di AS di Alessandria, e che quindi insomma ci darà la sua testimonianza. Abbiamo il collegamento? Sì. Ci senti? Ciao. Sì, ciao. Sì. Ciao, allora niente, noi ti abbiamo annunciato come un compagno che purtroppo vabbè, ha trascorso parte della sua carcerazione nella sezione AS di alta sicurezza di Alessandria. Abbiamo specificato che cos'è, abbiamo parlato della circolare del 2009 che ha introdotto queste sezioni e quindi volevamo sapere... se hai voglia di descriverci un po' proprio strutturalmente come è fatta questa sezione, cosa vuol dire essere detenuti lì e quindi come funziona poi la vita in carcere in quel di Alessandria. Sì, niente, la sezione è molto piccola, 7 celle, più la saletta della socialità, è isolata dalle altre sezioni, è proprio su una torretta sopra l'infermeria. Niente, ci sono alle finestre c'è questi pannelli di plexiglass che impediscono il circolo dell'aria e che entri la luce del sole, c'è solo un chiarore quando c'è il sole o comunque diciamo che c'è la luminosità è molto limitata. Sì. E per quanto riguarda l'organizzazione della sezione c'è 2 ore d'aria al mattino, 2 ore pomeriggio e la possibilità di andare in socialità dopo che è passato il carrello del vitto nel pomeriggio che passa alle 4:30 di pomeriggio. I passeggi sono 2 molto piccoli, 7 metri per 5 all'incirca, si misurarono a passi per vedere quanto erano grossi. E niente, quando sono stato io non c'era molta possibilità di fare attività altre. Sì. Nel senso che non c'era possibilità di andare in palestra, non c'era possibilità di andare al campo sportivo né di frequentare corsi o scuole o quant'altro. Sai se questa situazione è cambiata? Non so se riguardo a queste cose è cambiata. Ok. E quindi dicevamo la sezione completamente isolata dal resto del carcere, quindi dal resto degli altri detenuti. Che sì. Cosa comporta quindi un regime detentivo di questo tipo? Sì, è proprio isolata a tutti gli effetti, nel senso che quando scendendo al passeggio incontri qualche detenuto delle altre sezioni che in infermeria le guardie ti impediscono proprio di scambiarci 2 parole o comunque chiedere informazioni o la situazione delle altre sezioni. Questo significa togliere a chi si ritrova in questa sezione di AS2 la possibilità di intervenire a livello carcerario con proteste, lotte certo. E toglie a chi ci finisce dentro la possibilità di arricchire il proprio bagaglio diciamo culturale conoscendo persone che hanno molto da insegnare, persone che possono insegnare qualsiasi cosa veramente. Certo. Io ho passato dei mesi nella sezione comune del carcere di Lucca prima della circolare sì, immediatamente dopo l'arresto, e poi ho passato un anno e qualche mese nella sezione IV del carcere di Parma. Mm-hmm. E lì ho incontrato persone che hanno veramente arricchito il mio bagaglio culturale, perché niente, incontri di tutto. Certo. Il rapinatore, lo scassinatore, insomma persone molto interessanti. Sì, sì, infatti è proprio per questo appunto che per impedire questi scambi, diciamo, che ci potevano essere prima, è stata istituita, in realtà appunto abbiamo parlato di carcere speciale, insomma di ritorno di carcere speciale. E tra l'altro altra finalità, ne parlavamo prima di questa istituzione, è proprio la possibilità di controllare maggiormente chi è detenuto. Cosa dici rispetto a questo? Come tutte, anche nella sezione IV c'era un controllo strettissimo, nel senso che comunque venivano ascoltati gli scorti da cella a cella quando erano chiuse. Ai passeggi controllavano con chi parlavi riguardo magari a cose con microfoni nel passeggio. Mm-hmm. Però in questo modo, dividendo diciamo i prigionieri per aree, loro riescono comunque a controllare effettivamente un'area molto attraverso precisa tutte le, attraverso tutte le posizioni che possono uscire in un confronto quotidiano. Confronti quotidiani, appunto, al passeggio, passeggiando uno parla. Comunque è una cosa che non è da sottovalutare, diciamo. Certo. Sì, c'è anche l'esperienza delle compagne detenute in Germania negli anni 70-80 che finirono in sezioni ad hoc per loro, le compagne del Movimento 2 Giugno e della RAF. Dopo 15 anni passati a essere tre persone che si vedevano tutti i giorni, allora era totalmente impedito il contatto umano con le guardie, nel senso che non le vedevano nemmeno. E in un libro che è uscito qualche anno fa c'è una testimonianza di una compagna che è finita lì dentro che ha detto che in effetti dopo tutto quel tempo passato a essere sempre le tre persone che ti vedi tutti i giorni, inevitabilmente i rapporti poi si deteriorano. E quindi ti ritrovi a battibeccare per qualsiasi cosa o non so, a esasperare, diciamo, le piccole differenze che ci sono tra persona e persona, come succederebbe a chiunque, ovviamente. Certo. Costretto a vedere sempre le solite persone per anni. Certo. Bene, allora non so se hai qualcosa da aggiungere ancora rispetto a, non so, a questa esperienza? O... c'è poco da aggiungere, nel senso sì. Che comunque. Ma quello che riteniamo importante, insomma, è riprendere un po' le discussioni anche interne, diciamo, rispetto appunto all'isolamento carcerario che stiamo praticamente subendo senza dire niente in realtà. Sì. Quindi di. No, è importante comunque cercare di far nascere una discussione interna per capire cosa si vuol fare, se si vuol fare qualcosa, cioè se ci sta bene essere suddivisi così o se invece vogliamo comunque continuare ad avere la possibilità in carcere. Esatto. Nel senso che comunque se uno disgraziatamente finisce in carcere, comunque è importante che dia il proprio contributo all'interno delle dinamiche carcerarie. Inizialmente quando fummo trasferiti lì, quando iniziano ad arrivare compagni, all'inizio ero solo, poi quando cominciarono ad arrivare compagni, fu comunque bello vedere compagni dopo quasi 2 anni di carcerazione in cui non mi era impedito di vedere o compagni o persone affine, perché comunque nelle IV avevo diretto un incontro con altri compagni che passavano dal carcere di Parma. Sì. E inizialmente fu bello perché comunque ti ritrovi a parlare, ti ritrovi insieme a compagni con i quali non c'hai da, diciamo, mettere in chiaro delle cose, diciamo che tante cose sono scontate, mentre invece in altre sezioni non è proprio così. Certo. Però poi alla lunga ti rendi conto che in realtà te lì dentro non puoi più fare niente, ecco. Hai la possibilità di fare qualsiasi cosa. Tra l'altro proprio alla lunga, perché una cosa che poi non è stata detta ma che di fatto è che sempre nel 2009, adesso me l'andavo a guardare e mi faceva, insomma, mi ha colpito il fatto che a distanza di 2 giorni dalla firma di questa circolare del DAP, che è del 21 aprile del 2009, quindi il 23 aprile del 2009 viene approvato praticamente un decreto legge sulla sicurezza dell'allora ministro degli interni Maroni, che era nato come decreto antistupro, quindi praticamente impediva la possibilità di essere tradotto ai domiciliari dal carcere alle persone appunto accusate di reati tra virgolette sessuali, quindi stupro, favoreggiamento della prostituzione, eccetera. Quando questo decreto viene poi approvato viene anche modificato e questo dispositivo viene ampliato appunto a tutti e tutte quelle accusate per reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Questo significa in poche parole che se vieni tratto in arresto, anche in custodia cautelare, appunto te la fai tutta in carcere, cioè non hai possibilità di andare ai domiciliari. Quindi appunto tempi di detenzione lunghi in cui, non so, anche tu dicevi, ti sei ritrovato sempre con le stesse persone. Questo è quello a cui andiamo incontro adesso. Secondo me è importante, insomma, affrontare questa questione qui, e stasera abbiamo fatto questo tentativo e ci auguriamo che con i contributi anche di chi sta vivendo sulla propria pelle in questo momento questo isolamento carcerario andremo avanti nel confronto. E non so se tu hai qualcosa da dire oppure ci salutiamo. Ma no, niente da aggiungere. Dai, allora a presto. Un abbraccio. No, a presto. Ciao. Ciao, un abbraccio. Ciao. Ciao. Del mio odio, porta appresso se non muoio. Carica come dinamite una cavità, l'aria che si accende e gravita, e chi non la regge la vomita, la miccia che prende. Carica come dinamite una cavità, l'aria che si accende e gravita, e chi non la regge la vomita, la miccia che vado prende. Vado con uno sgarro in faccia, per i volti a faccia, una ragione sola è la mia scuola, se il coglione poi mi scappa. E quando crepi godo sono nella mia tana prato. Sono un bastardo senza azione stato. E dai confini cerca una trincea che tramuta. Chi cerca guerra e mangia carne cruda come una iena. Che stringe la carogna tra i denti come una macchina che gira con i fari spenti. Quella notte già, perché dalla costa che provengo, la pelle a caro prezzo se non trovo di meglio meglio. Meglio solo che la storia dura, meglio che mi gira di coglioni come c'è la furia. La raia suona. Allora, per concludere sulla questione della carcerazione, andiamo un attimo a rivedere appunto come funziona nel pratico la questione S. In realtà nel 2009 cosa è cambiato? Nel passaggio dall'EIV a S, cioè dall'elevato indice di vigilanza all'alta sicurezza, diciamo di facciata c'è stato un passaggio da un regime che era discrezionale per quanto riguarda appunto l'amministrazione penitenziaria a un regime appunto che più determinato, che fosse appunto più descritto. In realtà è solo di facciata questa cosa, perché? Perché quando appunto dei compagni o delle compagne vengono arrestate per reati come quello appunto del 270 bis, quindi vengono tradotti in AS, inizialmente vengono trasferiti in carcere appunto diciamo nei carceri dei più vicini a quelle zone, in quelle zone in cui vengono arrestati, carceri che per lo più non ospitano, non hanno possibilità di ospitare, non hanno sezioni predisposte per ospitare detenuti in regime di AS, e quindi queste compagne e queste compagne vengono tenuti in isolamento di fatto. Ossia vengono tenuti in delle sezioni isolate completamente dal tessuto carcerario e per cui automaticamente diviene comunque una norma puramente discrezionale per quanto riguarda l'amministrazione penitenziaria, perché sarà l'amministrazione penitenziaria stessa a decidere quando il detenuto sarà trasferito e quindi effettivamente quanto isolamento fargli fare al determinato detenuto o detenuta. Sicuramente un avvenimento su cui puntare l'attenzione è quello dei presidi, perché nell'ultimo periodo quello che abbiamo potuto vedere e constatare è il fatto che quando venivano pubblicizzati dei presidi indetti appunto dai compagni e dalle compagne in solidarietà a quei compagni e quelle compagne che venivano trattenuti in isolamento con questa scusa della S, E pochi giorni prima dell'avvenuto presidio, i compagni e compagne venivano poi trasferiti in carceri che potevano ospitare AS. Quindi di fatto gli veniva levato l'isolamento totale e venivano trasferiti in questi regimi detentivi particolari. Possiamo vedere ad esempio il caso di Maurizio Ferrari, un compagno che è stato arrestato il 26 gennaio per l'operazione Notav, che è stato rinchiuso nel carcere di Cuneo, carcere appunto che non prevede la presenza la possibilità di tenere dei detenuti in regime di AS, e quindi è stato tenuto per circa 5 mesi in regime di isolamento totale in quel carcere, fino al giorno in cui è stato indetto un presidio, e 2 giorni prima dell'avvenuto presidio è stato trasferito poi nel carcere di Ferrara, dove si trova tutt'oggi. E un altro episodio può essere quello di Giulia, una compagna arrestata durante l'operazione Ardire, che è stata 1 mese e mezzo in isolamento totale nel carcere di Teramo, e il giorno stesso appunto in cui era stato indetto un presidio in sua solidarietà sotto il carcere è stata trasferita nel carcere di Rebibbia, in cui si trova tuttora, e quindi non più in regime di isolamento ma in regime di AS, insieme ad altre detenute sottoposte allo stesso regime suo. E un altro episodio può essere quello ultimo avvenuto proprio in questi giorni qui, che è quello di Alfredo e Nicola, che sono stati arrestati, accusati dell'attentato a Gabriele Dinolfi, e si trovavano in regime di isolamento appunto nel carcere di Sanremo, carcere che non predisposto ad ospitare esse, e per cui loro venivano tenuti in isolamento totale, e essendo che i compagni e le compagne di quella zona avevano indetto un presidio sotto al carcere di Sanremo in solidarietà con loro per il 17 novembre, ieri sono stati trasferiti, questi due compagni sono stati trasferiti nel carcere di Alessandria, che appunto è un carcere che può ospitare detenuti in AS, e per cui ad oggi si trovano ad Alessandria. Per cui da qui possiamo sicuramente intravedere una possibilità, che è quella del presidio di solidarietà. Ovviamente non è l'unica forma per esprimere la nostra solidarietà, ce ne sono tantissime, tra le quali appunto lo scrivere le lettere, lo stargli accanto a questi compagni e queste compagne e fargli sentire la nostra vicinanza, e va bene, come tantissime altre forme di solidarietà che ovviamente non staremo qui ad elencare una per una, però sicuramente tra queste appunto c'è questa qui del presidio, che comunque può essere uno strumento abbastanza importante per cercare di ridurre i termini, i giorni appunto di isolamento imposti ai nostri compagni e alle nostre compagne. Sì, infatti, no, io volevo aggiungere che spesso magari si cade nell'errore, no, di considerare la grande mobilitazione sotto a qualche luogo di detenzione come possibile momento che esasperi poi gli animi delle guardie e che quindi in qualche modo vada a ledere la situazione dei compagni e le compagne detenute, mentre appunto invece questo è proprio l'esempio che mobilitarsi può dare una mano a questi compagni. Yeah. E in relazione a quello di cui si stava discutendo, forse è il caso di fare alcune piccolissime precisazioni. Intanto cito un episodio ulteriore rispetto a quelli di cui parlava il compagno, certamente appunto di Maurizio Ferrari, diciamo, e degli altri due episodi, cioè ce n'è un quarto che invece riguardava due compagni comunisti, cioè Manolo Morlacchi e Costantino Virgilio, che erano stati accusati di aver fatto parte di un'organizzazione che si chiamava, cioè, secondo l'ipotesi accusatoria per il comunismo, Brigate Rosse, e due compagni milanesi che erano detenuti qui a Roma presso il carcere Bibbia, carcere Bibbia che ha sempre avuto, diciamo, storicamente una sezione di AS, e che invece appunto a seguito di questa circolare del DAP che ha rideterminato tutte le categorie, diciamo, di appartenenza dei detenuti, sostanzialmente non esiste più a Re Bibbia una S, per cui sostanzialmente loro, nonostante fossero detenuti a Roma, erano in isolamento totale in quello che veniva considerato il G6, cioè il transito di Re Bibbia. E anche per loro stessa medesima vicenda di cui parlava il compagno, ovvero con un presidio indetto dai compagni di Milano, dai loro compagni qui a Roma, immediatamente furono anche loro trasferiti nel carcere di appartenenza per questa tipologia di reato e, diciamo, per la tipologia di reato in quanto marxisti-leninisti, diciamo, che è Catanzaro, quindi il carcere di Siano, e furono trasferiti. E chiaramente diciamo, la differenza tra permanere in regime di isolamento totale o quello di stare in sezione con altri compagni cambia veramente anche il volto del carcere, del proprio stato detentivo. Per cui questo era un ulteriore esempio. Volevo aggiungere un altro diciamo, alcuni altri elementi, ovvero che anche prima i compagni sarebbero dovuti essere, diciamo, compagni accusati del 270 bis dovevano andare in AS, e molto spesso venivano tenuti in sezioni EIV semplicemente perché non erano presenti sezioni AS in quei carceri, perché l'EIV era un qualche cosa differente, mentre l'AS riguarda il titolo di reato per cui si viene arrestati, l'EIV invece era il profilo soggettivo del detenuto stesso, ovvero anche se arrestato, non abbiamo avuto, diciamo, un compagno abbastanza noto almeno in questa anche per le compagnie di Roma, come soprannominato, non dico il nome, soprannominato il Sardo, che appunto nonostante magari è detenuto per reati che non rientravano, che non avevano nulla a che vedere con reati ipotetici da AS, era sostanzialmente considerato come un soggetto in EIV proprio perché il suo profilo soggettivo determinava un elevato indice, diciamo, di vigilanza sullo stesso. Nelle strade che cammino, sarei rilassato e non avresti l'odio che respiro sul filo continuo, tra notte e fuoco vivo, sono decisa, nella mia strada la prudenza è già finita, dolore di un momento mi darà la forza che stavo aspettando. Bisogna essere pazzi, quello che vedo è vero, e io tra notte e fuoco vivo. Bisogna essere pazzi, quello che vedo è vero, e io tra notte e fuoco vivo. Voglia di pezzi in mano, più caricatore pieno, voglia di baci, di carezze, di mentirmi questa volta almeno. Voglia di un'alba che viene, voglia di un'altra occasione. Per te che mi viene a sentire, suono per te che non mi vuoi capire, rido per te che non sai sognare, c'è una luce che riscalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra, il contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia. sulla faccia, cioè che penso della vita, con il suono delle dita, si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Allora, come detto prima, adesso ripercorriamo appunto le fasi della manovra repressiva a ritroso e ricominciamo dal prima. E per cui come funziona? Quando il prima, che sarebbe il periodo dell'indagine, per cui diciamo, adesso parliamo un attimo della persecuzione che subiscono tutti i vari compagni e le compagne che si muovono cercando appunto di incamminarsi, intraprendere percorsi di lotta per distruggere il sistema attuale. E sicuramente appunto, iniziando a parlare di questa persecuzione, siamo obbligati a parlare oggi delle strumentazioni tecnologiche che vengono utilizzate per perseguire i compagni e le compagne. E parlando di questo aspetto, stiamo proprio parlando appunto di quel mondo che Orwell si era immaginato. Perché? Perché questi anni, cioè il passaggio dagli anni 90 al 2000, hanno avuto un aumento esponenziale dell'utilizzo di strumentazioni tecnologiche invasive, atte appunto ad ascoltare, a spiare quelli che sono tutti quello che è appunto la vita, la quotidianità di ogni singolo compagno e compagna. E per introdurre tutto ciò dobbiamo innanzitutto avere chiaro in mente come funziona questo mondo. Quello di cui andrò a parlare ovviamente sono esperienze di tipo personale e ascoltate e vissute in prima persona. Non sono un tecnico non sono appunto un perito elettronico, e per cui parlerò solo ed esclusivamente appunto di quelle che sono esperienze vissute in prima persona o per appunto racconti fatti da compagni e compagne molto strette. Allora, andando a parlare di queste cose qui, sicuramente l'attenzione la dobbiamo porre sul fatto che ci troviamo a vivere in un mondo in cui ogni cosa ha un prezzo. Per cui anche le intercettazioni ambientali, telefoniche, come i pedinamenti secondo GPS o qualsiasi altra forma di intercettazione, ha un prezzo, e per cui l'accuratezza e l'asfissia che utilizzano loro per seguirci o per ascoltarci dipende anche appunto dalla volontà e da quanto l'apparato repressivo è disposto a spendere nei nostri confronti, per cui anche da quanto siamo considerati più o meno pericolosi. E da qui deduciamo anche un altro tipo di discorso, ossia il fatto che anno dopo anno vengono utilizzate sempre più in maniera di massa determinati tipi di tecnologie repressive che magari un tempo venivano esclusivamente utilizzate per alcuni tipi di settori definiti criminali. Andiamoli a vedere un attimino uno per uno e andiamo a capire come funzionano. Parlando di intercettazioni, se vogliamo iniziare da quelle telefoniche, che rappresentano ad oggi la stragrande maggioranza delle intercettazioni che vengono portate a processo e che poi serviranno per arrestare, per portare all'arresto un determinato tipo di persone. Come funzionano? Di solito funzionano il telefonino in sé per sé è una spia, e questo bisogna dirlo, ovvero ogni cellulare può essere intercettato in qualsiasi tipo di momento. Spesso come funziona? Che l'apparato repressivo, il ministero, fa richiesta ai singoli gestori telefonici, quindi Windows, Vodafone, Team, eccetera, eccetera, fa la richiesta appunto di intercettazione, e quindi automaticamente tutto il traffico che passa per quel telefonino viene ascoltato, registrato, quindi anche sia SMS che audio, insomma. Al di là di questo, ogni cellulare può essere localizzato. Il sistema di localizzazione è un pochino differente. Perché? Perché telefonini che non hanno il GPS incluso possono essere localizzati con la triangolazione dei ripetitori. Quindi hanno una localizzazione che è un po' più imprecisa, perché potrebbe avere un margine di 800 metri di accuratezza. Mentre invece i cellulari più moderni, quelli che appunto hanno un GPS incorporato, hanno un'accuratezza di 3 metri, per cui poi ogni persona che ha un cellulare di questo tipo in tasca può essere localizzato in qualsiasi momento con un'accuratezza molto molto molto precisa, diciamo. Continuando a parlare appunto delle intercettazioni telefoniche, sicuramente una cosa importante da aggiungere, un elemento importante, è quello che ad essere intercettato spesso è il numero IMEI, ossia il seriale del cellulare, per cui anche cambiando scheda e magari mettendo una scheda pulita, comunque ad essere intercettato, se non si cambia anche l'apparecchio, appunto è l'apparecchio stesso ad essere intercettato, per cui comunque cambiando scheda si continua a essere intercettati tranquillamente. Un altro elemento sicuramente può essere utile è che comunque gli ultimi cellulari, ad esempio quelli più moderni, specialmente gli smartphone, anche una volta spenti comunque hanno il localizzatore attivato, per cui in ogni caso potresti essere comunque localizzato. E su questo aspetto bisognerebbe spenderci un pochino altre due parole, perché comunque l'evoluzione ad oggi non abbiamo prove certe dell'utilizzo di cellulari da spenti o di intercettazioni ambientali fatte dal microfono del cellulare spento o scollegato. Certo è che l'evoluzione tecnologica va avanti a passi da gigante, e per cui la norma è buona norma appunto non utilizzare il cellulare in determinati episodi, lasciarlo a casa o quantomeno staccare batteria e sim se si vuole appunto fare una chiacchierata in maniera tranquilla con chi si voglia, insomma. E dall'intercettazione telefonica passerei a parlare appunto dell'intercettazione ambientale. E l'intercettazione ambientale è un'altra cosa che ricorre spessissimo all'interno dei processi. E sono stati tantissimi compagni e le compagne che hanno ritrovato appunto questi apparecchi nelle proprie macchine o nelle proprie case. Di solito come funzionano? Spesso questi apparecchi vengono affittati da ditte esterne al ministero e spesso ad installarli sono proprio i tecnici di queste ditte esterne, per cui ci sono anche alcune esperienze di compagne che si sono ritrovate appunto questi loschi figuri dentro casa con appunto due guardie di copertura e un tecnico che sta intento ad applicare questi apparecchi. Come funzionano? Di solito c'è innanzitutto si dividono in due filoni principali, diciamo. Ci sono microspie che utilizzano la rete elettrica del posto, quindi può essere una macchina o la casa, e microspie che hanno la loro batteria, per cui sono completamente autonome da un determinato tipo di impianto. Queste microspie, se da una parte è più difficile localizzarle perché non basta seguire appunto quello che è l'impianto elettrico di casa o della macchina per riuscire a risalire a queste, hanno sicuramente una controindicazione che è quella della durata nel tempo, per cui la durata appunto è sicuramente minore rispetto a quelle appunto che sono installate su un impianto elettrico e che possono durare parecchio. E al di là di questo appunto possono essere comunque suddivise in due tipi. Ci sono quelle che sfruttano le frequenze radio standard, quindi che trasmettono in UHF e VHF, e di solito trasmettono sono microspie che trasmettono di solito intorno tra i 416 e i 423 MHz. E queste microspie di che hanno bisogno? Hanno un trasmettitore che trasmette a questa frequenza d'onda, quindi hanno bisogno di un ricevitore nella breve distanza, perché non possono trasmettere a più di 100 metri di distanza, quindi hanno bisogno di un ricevitore collocato nella breve distanza, che sia poi collocato esso stesso magari a una linea del telefono che manda in diretta alla centrale quello che viene spiato, oppure cioè direttamente una postazione fissa degli apparati repressivi nei dintorni della casa o del veicolo o del motoveicolo che viene spiato che ascolta direttamente appunto con questo trasmettitore. E gli altri tipi di microspie quali sono? Sono quelle di tipo GSM. Ossia, che significa GSM? È lo stesso tipo di frequenze che vengono utilizzate per i cellulari. Infatti, come funzionano? Tutte le volte che abbiamo ritrovato questi tipi di microspie, ritroviamo un corpo centrale che è niente po' meno che un cellulare, ossia un corpo in cui sono inserite delle SIM che appunto vengono chiamate dai vari spioni di turno. E nel chiamare queste SIM vengono attivati i microfoni, le videocamere oppure appunto i localizzatori GPS se montati su un veicolo. Per cui questi tipi di microspie che comportano? Comportano una spesa in più per il ministero, perché comunque devono chiamare una SIM, per cui è più dispendiosa sicuramente di una microspia radio. Però allo stesso tempo comporta il fatto che non ha bisogno di un ricevente piazzato nei dintorni della microspia stessa, per cui automaticamente sono microspie che possono essere localizzate anche a distanze enormi e rintracciate da qualsiasi tipo di punto. Che altro? Ad oggi, come ritrovamenti effettuati di microspie audio, sono stati effettuati tantissimi in ogni dove. addirittura all'interno di peluche, di divani, all'interno di porte, cioè veramente gli addetti ai lavori avevano smontato una porta, tagliato la parte sottostante della porta, inserita la microspia e rimontata la porta stessa, per cui dei microspie audio davvero sono state trovate in ogni dove. Di videocamere, quindi di microcamere, per lo più di quelle utilizzate per arrivare a processo sono state quelle montate al di fuori delle case dei compagni, e sono state comunque numerose i ritrovamenti di queste. E ad oggi ci sono state solo due occasioni di compagni e compagne che si sono ritrovati all'interno della propria casa una microcamera. E ad oggi, da quello che mi risulta, adesso magari chiediamo conferma, comunque non sono mai state utilizzate i dati ricevuti dalle varie videocamere installate all'interno dei case di compagni, non sono mai stati utilizzati a livello processuale, quindi portati in aula. Sicuramente sono stati ritrovati, uno in particolare è stato ritrovato all'interno di un televisore di quelli vecchi, insomma di quelli catodici, in casa di un compagno a Milano. Niente, ad oggi sicuramente un dato rilevante è l'utilizzo esponenziale di microspie di tipo GSM, quindi di quelle che hanno al loro interno una scheda SIM. E per concludere, diciamo, porrei un attimo il focus su quella che è appunto la parte delle autovetture. Perché? Perché nelle autovetture il sistema è un po' particolare. Andiamo un pochino a descrivere dove sono state ritrovate. Nelle autovetture di situazioni autonome, cioè diciamo scollegate dall'impianto elettrico della macchina, di solito vengono ritrovate esclusivamente rilevatori GPS, cioè quindi rilevatori di posizione che pedinano in ogni istante la posizione esatta dell'autovettura o della motovettura a seconda. Mentre invece collegati a rete elettrica sono stati parecchi ritrovamenti. Di solito come funziona? C'è un corpo centrale in cui è inserita la SIM, un'antenna collegata che di solito è un parallelepipedo rettangolare, e due microfoni che partono sempre dal corpo centrale, e un cubettino di 3 cm di lato che è appunto l'antennina GPS. Dal corpo centrale partono due fili che sono collegati all'alimentazione. Di solito l'alimentazione viene sfruttata o l'accendisigari e la lucetta superiore appunto dell'autovettura, o direttamente la scatola dei fusibili, e alcuni sono i casi appunto in cui viene direttamente collegato alla batteria. In questo caso ovviamente la batteria si scarica spesso e è buona abitudine appunto, nel caso in cui questa batteria va sempre giù, controllare un attimo e capire se c'è stata una manomissione per conto di questi spioni. We'll be right back. E alle 21.51 di questo 15 ottobre torniamo in voce sugli 87 e 9 di Onda Rossa. Lo facciamo ringraziando il compagno che ha gentilmente ceduto a questa lunga chiacchierata dai microfoni di Onda Rossa rispetto sorveglianza, controllo dei corpi e politiche repressive. Lo facciamo ringraziandolo e annunciando anche con estremo ritardo a chi si era sintonizzato e sintonizzato per ascoltare quello che è uno spazio che è settimanale, e con l'occasione, dato che siamo per entrare proprio alle 22 in punto in quello che è lo spazio musicale e radiofonico curato dal nostro compagno Alberto, per mandargli la nostra più profonda solidarietà e vicinanza e complicità. Dai Alberto! Allora, ritorniamo a noi e per concludere la parte appunto della persecuzione tecnologica è importante parlare dei computer. Perché? Perché specialmente alla luce delle ultime ore repressive, in particolar modo l'ardire e l'arresto poi di Nicola Alfredo, sono stati utilizzati a livello appunto di indagine delle intercettazioni ambientali fatte tramite computer. Come avvengono queste? Viene installato un software all'interno dei computer, del computer stesso, che si chiama Troiano, che permette allo spione di turno di praticamente impossessarsi in remoto del computer stesso. Questo programma può venire installato o fisicamente o tramite internet, quindi tramite qualche file che viene installato all'interno del computer, e dà la possibilità alle spie di vedere tutto ciò che si sta facendo, di utilizzare il microfono stesso del computer, quindi probabilmente, cioè questo è un dato di fatto, quindi anche della videocamera, possono utilizzare anche la videocamera, anche se poi a livello processuale non viene utilizzata come prova, anche la telecamera in loro utilizzo nel momento in cui il computer è esposto appunto a un troiano. E comunque, dato allo stato attuale delle cose, i compagni che oggi stanno dentro hanno come elementi di indagine hanno anche queste intercettazioni ambientali qui. Quindi intercettazioni ambientali avvenute tramite il microfono del computer, tramite questo programma che gli è stato inserito dentro, e programma che appunto dà la possibilità alle guardie di manovrare il proprio computer da remoto. Programma che al suo interno ha anche all'interno dei computer viene anche installato un keylogger. Cos'è il keylogger? È un programmino che dà la possibilità di registrare e salvare tutti quelli che sono i vocaboli digitati sulla tastiera. Per cui automaticamente anche tutte le password o quei testi che magari vengono scritti tramite PGP o GPG, quindi criptati, comunque vengono scritti in chiaro perché comunque vengono digitati da una tastiera, e quindi automaticamente tramite questo keylogger vengono catturati e rimandati agli spioni di turno tramite appunto questi troiani. Per cui niente, questo sicuramente è un elemento in più che abbiamo potuto riscontrare con queste ultime nuove repressive, in cui è importante che è importante analizzare ed è importante da superare anche. Per cui attenzione ai computer, specialmente i portatili che hanno il microfono e la videocamera inclusa, quindi installata dentro. Quindi attenzione a disattivarla sempre, attenzione a quando si apre un sistema operativo molto che è installato sul computer stesso e non ad esempio su una chiavetta, e diciamo in generale attenzione alle varie tecnologie, perché tutte le tecnologie che vengono sviluppate ad oggi vengono prima utilizzate appunto da un apparato militare e dopo anni e anni vengono estese al civile, per cui sono tutte tecnologie che comunque sono state sviluppate da menti abbastanza perverse che appunto mirano a un sistema totalitario e quindi a un controllo totale di ognuno e di ognuna. Allora, per concludere questo aspetto, appunto, poniamo un attimo l'attenzione su quello che vogliono dire le intercettazioni e di come vengono poi utilizzate nelle aule, quindi in ambito processuale. E è molto particolare questa questione, perché? Perché quello che viene detto a livello discorsivo, riportato poi su un pezzo di carta e letto in un'aula, può assumere tutto un altro significato. Perché? Perché ad esempio due persone che tra di loro scherzano, ridano, stanno giocando su una questione, è ovvio che poi quando viene trascritto e viene riletto può avere un altro senso, come anche il fatto di un compagno o una compagna che magari stanno leggendo un articolo di giornale, tagliando una frase, estrapolandola dal contesto e riproponendola all'interno di un'aula, può assumere tutto un altro significato o valore. E questo appunto è uno degli strumenti che loro stanno utilizzando negli ultimi anni maggiormente, quello delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, e questa è un'arma che loro hanno perché appunto è molto interpretabile e appunto è utilizzabile a loro piacimento. Inoltre, ad oggi abbiamo varie esperienze di intercettazioni che sono proprio state ricostruite a tavolino. Intercettazioni che magari, quindi file, parliamo di file audio che sono stati proprio spezzettati e rimontati, e quindi frasi che assumono tutt'altro significato e che ovviamente assumono il significato che lor signori vogliono dare per arrivare a una condanna o quantomeno per arrivare a perseguitare un determinato tipo di situazioni e quindi a distruggere determinate situazioni di lotta. Per cui niente, questo è il contesto in cui ci troviamo. Questa è la repressione che ci troviamo ad affrontare, a combattere, e ovviamente di fronte a tutto ciò non possiamo arrenderci assolutamente, però trovare a farci i conti che significa non cadere in uno stato di ansia e di paranoia totale e quindi a cadere nell'inattività, ma al cercare di capire, confrontarci e di crescere il più possibile su quelli che sono i loro avanzamenti, quindi gli avanzamenti delle varie tecnologie repressive, e capire e dotarsi degli strumenti per prevenire possibili arresti e per evitare di donargli determinato tipo di elementi che magari possono portare a degli arresti nostri o di persone che ci sono a fianco. Allora, relativamente appunto allo stato di terrorismo che di fatto creano nei confronti di chi appunto porta avanti le lotte di compagni e compagne, c'è un altro elemento di cui vorremmo parlare stasera che insomma riteniamo molto importante, ovvero un'altra delle cose che succedono in realtà sia in fase di indagini preliminari che poi durante tutto il corso delle operazioni, ovvero appunto i vari tentativi di avvicinamento da parte dei loschi figuri degli apparati appunto dell'apparato dello Stato. E diciamo ultimamente abbiamo avuto notizia di vari di questi tentativi, ma questa cosa non è nuova, insomma, e si verifica sia all'esterno che all'interno delle carceri stesse. Se pensiamo inoltre che appunto mi sembra proprio uno degli articoli facenti parte del pacchetto Pisanu istituzionalizzava in qualche modo la possibilità da parte proprio dei servizi segreti interni di andare a contattare e avere colloquio direttamente in carcere con il detenuto, figuriamoci. Questa cosa avviene ovviamente anche all'esterno ed è avvenuta diciamo per esempio nel corso di tutte le operazioni repressive di cui abbiamo parlato in queste tre trasmissioni. A questo proposito volevamo leggere una lettera giunta alla redazione di un opuscolo del 2004. Cari compagni, vi scrivo questa lettera per mettervi al corrente di un fatto molto grave che mi è successo qualche giorno fa e che non riguarda solo me, ma interessa in senso stretto tutti i compagni. L'altro giorno, mentre uscivo dalla palestra, sono stato avvicinato da un'auto i cui passeggeri sembravano voler chiedere un'informazione. Non appena l'auto si è fermata, è uscito un uomo sulla quarantina, castano, con il pizzetto, alto circa 1,75. Ho subito capito che non si trattava di niente di buono. Si è avvicinato e mi ha sorpreso chiamandomi per nome e con fare cordiale e confidenziale si è presentato come un dipendente del Ministero degli Interni. Potete immaginare quale fosse il mio stato d'animo in quel momento. Nella mia testa correvano mille pensieri, mille congetture e venivo assalito da circa un milione di paranoie. Da lì a poco però, tutta la nebbia che si affollava nel mio cervello sarebbe stata spazzata via e la situazione mi sarebbe apparsa in tutta la sua tremenda chiarezza. Il tipo del ministero, infatti, ha cominciato dicendomi che loro si stavano occupando di fare uno studio all'interno del cosiddetto movimento anarchico ed avevano bisogno per questo di qualcuno che, dal suo interno, fosse disposto a collaborare fornendo informazioni in cambio di una congrua ricompensa. Dopo queste prime parole, forse notando l'espressione di disappunto che andava crescendo sul mio volto, questo losco personaggio ha cominciato a rassicurarmi, dicendomi che non dovevo preoccuparmi, che non dovevo pensare che loro stessero cercando qualcuno che fosse disposto a fare l'infame, perché quella che loro stavano portando avanti era semplicemente una ricerca sul movimento anarchico. Sorridendo, ha aggiunto che il mio compenso sarebbe stato, dal punto di vista economico, qualcosa di ben più elevato di uno stipendio. Finalmente, riemerso dal mio stupore, la mia reazione è stata chiaramente molto ostile nei suoi riguardi e dopo averlo mandato a quel paese gli ho intimato di lasciarmi stare e di non venirmi più a cercare perché non mi interessavano le loro zozze proposte, né di avere a che fare con loro per nessun altro motivo. Purtroppo però questa storia non è finita lì. Dopo qualche giorno, infatti, uscendo di casa, sono stato avvicinato dal medesimo soggetto, che facendo ricorso ad ammiccamenti vari ed essendo anche velatamente intimidatorio, mi ha detto che in cambio della mia disponibilità mi sarebbe stata pulita la fedina penale, sistemati tutti i problemi giudiziari e offerto un caffè. Per farla breve, l'ho mandato nuovamente a quel paese. L'impressione che ho avuto è stata quella che più di voler sapere qualcosa da me, ciò che volesse ottenere fosse una firma in fondo ad un foglio, compilato da loro. Cari compagni, sono al corrente che queste provocazioni hanno riguardato altri compagni e compagne o loro amici su tutto il territorio. Mi sembra che a tacere si finisca involontariamente con il coprirli, facendo il loro gioco. Anche in questo caso il segreto è dirlo. Facciamo conoscere questi episodi e con essi tutti i dettagli connessi, per esempio le loro facce, il loro accento, i loro metodi, le loro minacce, eccetera. E non ci scordiamo che per uno che si avvicina, molti altri sono ad osservarci a distanza. Osserviamoli e ricordiamoceli. Sono sicuro che un atteggiamento nostro determinato e inamovibile sia un buon antidoto a questi tentativi porcospini. Da me non sono più tornati. Un saluto a tutti e tutte. Dunque, abbiamo parlato appunto di varie fasi riguardanti appunto le varie operazioni repressive e quindi non vogliamo tralasciare il momento della perquisizione. Vabbè, le perquisizioni avvengono ovviamente con modalità differenti di volta in volta, quindi può capitare che Divos e Ross, quando si presentano alla porta, siano particolarmente agitati, oppure che il loro interesse sia quello, diciamo, di mostrarsi disponibili al dialogo, e allora cercano in tutti i modi di, diciamo, di metterti a tuo agio. Spesso quando devono effettuare arresti si sentono autorizzati a mostrare i denti, e infatti si sprecano proprio gli episodi in cui, diciamo, sono state sfondate porte o distrutti appartamenti. D'altra parte, appunto, l'eventualità di rimuovere ostacoli al fine di entrare nel locale, diciamo, da perquisire è scritto e sottolineato nel decreto che viene poi consegnato nelle mani di chi la subisce, la perquisizione. Che dire, che gli orari e i giorni anche in cui vengono effettuate le perquisizioni, e a volte le perquisizioni seguite da arresti, sono legati appunto alle necessità che di volta in volta si trovano di fronte gli inquirenti. Quindi è capitato che poi, leggendo successivamente dagli atti, siamo venuti a conoscenza del fatto che si siano svolte un giorno piuttosto che quell'altro, semplicemente perché i diretti interessati magari si sarebbero allontanati dalla propria abitazione, così come se di solito questi loschi figuri si presentano intorno alle 6 del mattino, l'ultima volta l'hanno fatto alle 4 in tutte le case che sono state perquisite. Si presentano appunto incappucciati, oppure Oppure, come dicevo prima, cercano di tenere la situazione sotto controllo con altri metodi di comportamento, diciamo. E questo ovviamente non deve, cioè nel senso sono sempre le stesse persone che poi di volta in volta scelgono che comportamento tenere. Quello che è il nostro di comportamento, sul quale magari vorrei dire due parole, perché sempre appunto dall'esperienza più o meno diretta è capitato di reagire comunque, perché ovviamente ci sono tutte le motivazioni per incazzarsi alle 5 del mattino, dal momento che appunto si viene buttati giù dal letto e si sta in qualche modo subendo veramente una violazione di tutta l'intimità. Però anche appunto invece voler tenere un atteggiamento estremamente di dialogo anche da parte nostra, ecco, non deve far cadere nel tranello che possa servire, diciamo, a cavarsela poi in situazioni, in fasi successive. Modello, imprenditore, è rapinatore, è buio nel paese. Allora, per dire altre due cose sulla perquisizione, sicuramente è uno strumento che viene utilizzato come tutti gli altri per terrorizzare. Infatti ognuna di queste manovre repressive di cui abbiamo parlato prima, come di tutte quelle effettuate nel corso degli anni, quindi ognuna di queste operazioni contro compagni e compagne che si battono nella lotta, comunque viene sempre condita da decine e decine di perquisizioni. Di solito queste perquisizioni vanno a colpire anche i ragazzi magari più giovani che da poco si sono avvicinati a un determinato tipo di percorso di lotta, proprio appunto per terrorizzare e per cercare di isolare e di colpire quella che potrebbe essere una relazione solidale e complice. Infatti pensiamo che appunto in una giornata in cui vengono arrestate magari tre compagni e compagne vengono fatte 60 perquisizioni e spesso queste perquisizioni vengono portate non solo nella propria abitazione, ma vengono effettuate anche sui propri posti di lavoro o nelle case dei genitori, appunto dei parenti, apposta per creare per creare appunto delle situazioni spiacevoli, per creare dei problemi e per cercare appunto di terrorizzare il più possibile le persone appunto che si vedono coinvolte in questo. Per spendere altre due parole su come funzionano e come vengono effettuate, sì, ovviamente ogni volta cambiano a secondo poi del peso o della mediaticità del caso, vengono effettuate in una maniera più brutale o più raffinata, se così si può dire. Sicuramente un elemento costante in quelle che sono le operazioni repressive contro i compagni e le compagne è il sequestro del materiale multimediale o informativo cartaceo, per cui ogni volta che questi loschi figuri ti entrano in casa ti sequestrano qualsiasi tipo di supporto informatico, di memoria informatica, per cui pennette, computer e chi più ne ha più ne metta. E oltre a quello, ovviamente, quello che loro ritengono interessante sono i vari opuscoli, le riviste, i libri che sono usciti. Perché? Perché ovviamente queste, oltre a essere manovre che vengono utilizzate per terrorizzare, per creare il vuoto intorno a determinati compagni che vengono colpiti, sono anche manovre che servono a monitorare quello che sono e le relazioni intime tra compagni e compagne, e quelle che sono appunto le relazioni tra varie situazioni o appunto quelle che sono le pubblicazioni e quello che si muove insomma sotto il cielo. E sicuramente un'altra cosa da aggiungere è il fatto che ultimamente nelle varie perquisizioni che sono state subite vengono ricercate, oltre ovviamente ai vari indumenti o quindi scarpe, vestiti e chi più ne ha più ne metta, che magari possono ricondurre a una situazione di reato specifica, vengono anche sequestrati ad esempio o spazzolini da denti o rasoi, insomma oggetti che possono detenere DNA. Che alla pace si pensa, che la pace si sfiora, andea, andea. due famiglie disarmate di sangue si schierano a resa. E per tutti il dolore degli altri è dolore a metà. Si accontenta di cause leggere la guerra del cuore. Il lamento di un cane abbattuto da un'ombra di passo. Si soddisfa di brevi. E a proposito di DNA e schedatura genetica, è un po' di tempo che esiste, è stato introdotto il prelievo forzato dei campioni biologici e di altri accertamenti medici. Quindi, nonostante debba esistere un provvedimento di un giudice, un GIP, il pubblico ministero comunque durante le perquisizioni già può aver dato un'autorizzazione al prelievo forzato del DNA. Oppure può disporre appunto accompagnamento forzato della persona per sottoporsi agli esami. E sicuramente questo è una conseguenza di ciò che è stato introdotto con un trattato internazionale per la cooperazione di polizia, per rafforzare appunto questa cooperazione e l'introduzione, appunto, la formazione di una banca dati internazionale di schedatura genetica, quindi di DNA. E l'Italia, e lo Stato italiano già nel 2009 ha stabilito appunto la formazione di questa banca dati, e che deve contenere comunque i DNA di persone detenute, sia definitive sia a misura cautelare, ma anche di arrestati o sottoposti a fermo indiziario. Di loro si nasconde una speranza smarrita, che il nemico la vuole, che la vuole restituita. Andeao, andeao. È una fretta di mani sorprese a toccare le mani, che deve esserci un modo di vivere senza dolore. Una corsa degli occhi negli occhi a scoprire che invece è soltanto un riposo del vento, un odiare a metà. E alla parte che manca si dedica l'autorità. Amistade si oppone alla nostra sventura. Questa corsa del tempo a sparigliare destini e fortuna, che ci fanno queste anime davanti alla Chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa. Andiamo a concludere questi tre appuntamenti in cui si è approfondito un po' rispetto a repressione e carcere, e concludiamo invitando tutti e tutte ai prossimi appuntamenti che ci saranno in tutta Italia, in particolare il 17 novembre ci sarà un presidio al carcere di Alessandria. E per sostenere i compagni rinchiusi nella S di Alessandria e i compagni appena trasferiti lì, Alfredo e Nicola. il 24 novembre un presidio sotto il carcere di Tolmezzo per sostenere un compagno, Maurizio Alfieri, che anche grazie alla precedente detenzione di un altro compagno, Massimo, era riuscito a far uscire informazioni sui soprusi che avvengono in quel carcere in particolare, e che ora da ormai 3 mesi sta subendo un pesante isolamento, e questo presidio vuole appunto portare a lui aiuto e solidarietà. E ricordiamo il 21 novembre l'appuntamento al Tribunale di Torino per l'inizio del processo contro i Notav, e il 2 dicembre qui a Roma al carcere femminile di Re Bibbia l'appuntamento è al Prato davanti le mura del carcere. E concludiamo leggendo appunto un contributo scritto via lettera da una compagna attualmente detenuta alla massima del carcere di Re Bibbia. Tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Da una lettera di una compagna detenuta alla massima di Re Bibbia. Quanto sono lunghi 10 anni? Quanto è lungo un ergastolo? Sono un'eternità in un continuo di vita più o meno sempre uguale, lontana da quella vera che conducono tutti gli altri oltre le mura. Ma come si fa? Come si fa a chiudere la porta dietro le spalle di una persona per 20 anni, 30 anni? Come cazzo si fa? Chi glielo dà quel coraggio a quelle mani? Penso che una volta fuori di qui non vorrà nemmeno le chiavi della macchina. Quel rumore maledetto che risuona in ogni momento della mia giornata, tintinna, arriva all'orecchio, nel sonno si insinua, perverso. Ti sveglia, ti ricorda costantemente dove sei, dove cazzo t'hanno rinchiuso e qual è il rumore della tua libertà perduta. E invece il presidio a Re Bibbia l'abbiamo sentito, abbiamo visto i fuochi, e io ho sentito anche una voce femminile e una maschile che parlavano. L'ho voluto distinguere, ho voluto immaginare le facce di chi parlava, lo sguardo, l'intensità dell'emozione trasmessa. Altro che se si sente, arriva, arriva anche tutto quello che non si sente, perché sapervi là fuori è emozionante, rompe tutto il cemento che ci hanno messo in mezzo.